Bossi attaccano la miglia per colpire me, il partito, le inchieste sono organizzate da Roma padrona, dice il senatore. Wall Street Journal critica Monti sulla riforma del lavoro, un passo indietro la nuova versione del governo. Boom della cassa integrazione, secondo l'INPS a marzo è cresciuta del 21%. L'Aquila è in migliaia alla fiaccolata del ricordo del terremoto, alle 3:32 la città si è fermata. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione GR24, dunque ben ritrovati. Partiamo di nuovo dalle vicende politiche che hanno scosso la Lega e dalle conseguenze delle dimissioni di Umberto Bossi dalla segreteria del Carroccio. Tutta la manovra è chiara, è contro di me e contro la Lega, così oggi il senatore il giorno dopo le sue dimissioni. Sentiamolo. Bravo il campo da ogni equivoco e da ogni ingombro per lasciare la possibilità a chi deve lavorare di fare il loro lavoro in maniera migliore. Ho detto mi dimetto, ci sono messi tutti a piangere. Diciamo che è stato un momento emozionante per me, che mi sono commosso, evidente. Queste alcune delle frasi rilasciate da Bossi poco fa, proprio pochissimi minuti fa, il giorno dopo il suo addio alla guida della Lega, ma non è ancora chiaro quale sarà il futuro politico della Lega e di Bossi. Allora facciamo il punto con Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, ancora tutto è molto confuso e poco fa Bossi ha continuato a parlare, indeciso se ricandidarsi o meno al congresso della Lega. L'ex leader ha anche parlato di Silvio Berlusconi, ha detto ci sarà rimasto male per me. Ho parlato con Renzo, assicura poi Bossi riguardo al figlio e dice gli credo sull'auto. Maroni non è un Giuda, ha fatto solo una corrente. Ma gli assetti nella Lega sembrano cambiare e sembra prendere più peso il Veneto. Dal canto suo Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, accusa. Credo che i familiari devono restare fuori dalla politica, in famiglia ne basta uno e ora dobbiamo puntare ad un partito con un codice etico. Se perderemo voti è un problema di credibilità, in Parlamento comunque si resta all'opposizione. All'attacco invece il sindaco di Roma Gianni Alemanno, mi auguro che ora scompaia la dizione Lega Nord Indipendenza per la Padania, ma Alemanno è convinto che bisogna costruire un nuovo assetto e per il momento qui da Roma è tutto, vi studio. Grazie Elisabetta Fiorito e adesso sentiamo le parole di Pier Ferdinando Casini, leader dell'UDC, intervenuto questa mattina a 24 mattina da Alessandro Milan. Sono stato talmente sempre oggetto delle critiche e delle offese di Bossi che francamente non vorrei ripagarlo con l'uguale moneta. Bossi oggi esce di scena di fatto. Si parlerà tanto delle crisi dei partiti, ma sfido io a pensare se c'è un altro partito politico italiano in cui l'impasto tra le vicende familiari e le vicende finanziarie è uguale a quello della Lega. Francamente basta il buon senso per capire che è un'anomalia tutta padana, ma io credo che in momenti come questo ci voglia un... È inutile dare giudizi, è inutile dare il calcio dell'asino, non mi piace. Bossi esce di scena, probabilmente su questo epilogo ha inciso fortemente anche la malattia che lui ha avuto in questi anni, che gli ha fatto perdere un po' il controllo della situazione. Certamente è stato un grande protagonista della politica italiana. Ma veniamo al tema delle inchieste giudiziarie che hanno coinvolto i familiari di Bossi e la Lega sui finanziamenti occulti al partito. Facciamo il punto in questo servizio. Consegne di denaro in contanti, assegni e pagamenti vari, la ristrutturazione della casa di Gemonio, i fondi per la scuola della moglie Emanuela Marrone, anche le multe prese dal figlio Renzo e poi auto, cellulari, il conto del dentista. C'è questo e molto altro nella cartellina Family sequestrata dalle forze dell'ordine a Francesco Belsito. Qui l'ex tesoriere del Carroccio avrebbe segnato tutte le uscite destinate alla famiglia di Umberto Bossi, soldi che per l'accusa sarebbero stati distratti dai conti del Carroccio, dai documenti e dalle intercettazioni telefoniche. Emerge che a beneficiarne sarebbe stato anche Roberto Calderoli. Uno dei capitoli di spesa più consistente è però quello intestato alla vicepresidente del Senato, Rosi Mauro. Un quadro che si fa sempre più sconcertante giorno dopo giorno e che, se confermato, testimonierebbe una gestione familistica dei conti del partito davvero senza precedenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora su questa vicenda che sta scuotendo la politica, il commento di Stefano Folli. Penso che dopo lo scandalo che ha travolto il partito e che ha devastato la Lega, penso che l'uscita di Bossi è degna di rispetto, soprattutto se è quello che sembra, cioè un reale passo indietro irrevocabile. Se invece è che, come è stato annunciato, Bossi assume la presidenza del partito e di fatto continua a influenzare la struttura, e penso che in questo caso sarebbe qualche cosa che aumenta i problemi della Lega e non li risolve. Per quello che sappiamo, le questioni non sono strettamente giudiziarie per Bossi, ma però il problema politico esiste ed è molto serio. Insomma, secondo me ormai si è completato un ciclo lunghissimo, importante, però oggi Bossi, se vuole salvare la Lega, deve realmente promuovere il ricambio completo del gruppo dirigente. E sui rapporti tra politica e giustizia interviene Gianfranco Fini lanciando due petizioni di Futuro e Libertà per la trasparenza della politica. La prima chiede che non siano più candidabili condannati anche in primo grado per truffa, corruzione e associazione a delinquere. La seconda petizione invece chiede che i politici e i dipendenti condannati in via definitiva siano espulsi definitivamente dalla pubblica amministrazione. E ora il duro giudizio della stampa conservatrice anglosassone nei confronti di Monti dopo la nuova stesura della riforma del lavoro. Il dietrofront del governo sul lavoro, scrive Wall Street Journal, rinunciando ad eliminare il tout-court, il reintegro nel caso di licenziamento economico illegittimo, è una resa a coloro che vorrebbero portare l'Italia vicino all'abisso della Grecia. Così un giudizio sull'editoriale apparso sul Wall Street Journal. E proprio sulla riforma del mercato del lavoro è intervenuto Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, che in questi ultimi mesi, proprio sulle condizioni in cui si lavora in Italia, è intervenuto spesso. Sentiamo. È una scelta difficile, e l'ho detto anche l'altro giorno, che mettermi nei panni di Mario Monti per cercare di decidere dove è il livello giusto di equilibrio nella modifica dell'articolo 18 è una scelta che io non posso fare per lui. La prova della validità della riforma dell'articolo 18 si vedrà nei mercati, si vedrà nella reazione che avrà lo spread, nella credibilità che il Paese riuscirà a mantenere in questo processo. La domanda da farsi non è se ci credo io nella riforma dell'articolo 18, e vedere un po' come reagiscono i mercati finanziari a questa proposta, perché l'indebitamento di questo Paese, siamo il terzo Paese più indebitato nel mondo dopo l'America e il Giappone, e quindi abbiamo bisogno di un sostegno fondamentale e duraturo da parte di investitori internazionali, e quindi nel presentarci al mondo esterno dobbiamo essere credibili in quello che diciamo. Quale dichiarazione? Adesso i numeri del mercato del lavoro: volano le domande di disoccupazione a febbraio, le richieste presentate sono state 80.693 con un incremento dell'8,7% rispetto all'anno scorso, e prosegue la corsa al rialzo anche della cassa integrazione. A marzo, sempre secondo i dati diffusi dall'INPS, le aziende hanno chiesto all'istituto 99,7 milioni di ore di cassa integrazione, con un aumento del 21,6% su febbraio, anche se rispetto ad un anno fa si registra un leggero calo dell'1,8%. Nuovo colpo di freno delle banche ai prestiti alle famiglie e alle imprese, mentre tornano ad aumentare i depositi da parte dei correntisti e vola la raccolta bancaria sul mercato. Lo rivela Banca d'Italia: a febbraio i prestiti hanno segnato più 1,3%, il tasso minimo da almeno un anno a questa parte. La raccolta ha messo a segno un più 0,5% in positivo dopo 4 mesi di rosso. E ora con la cronaca: operazione delle fiamme gialle a Pesaro, smascherata una truffa da 30 milioni di euro. Il colonnello Pastore al microfono di Valeria De Rosa. I finanzieri del nucleo di polizia di tributaria qui di Pesaro hanno scoperto una truffa di oltre 30 milioni di euro a danno di circa 100 investitori della provincia di Pesaro, operata da 3 promotori che collocavano in maniera illecita prodotti assicurativi che in realtà nascondevano investimenti ad alto rischio finanziario e polizze assicurative speculative sulla vita di ammalati terminali di cancro americani. I promotori percepivano delle provvigioni per cui più vendevano questi prodotti e più guadagnavano. Il fatto è che poi a perdere erano gli ignari clienti. Questi prodotti venivano sottoscritti, ma erano anche mancanti di alcune informazioni. Esattamente. Possiamo dire che in questo caso gli investitori forse hanno peccato di superficialità? Sicuramente, perché i prospetti informativi per lo più erano scritti in lingua inglese e quindi queste persone non si sono rese conto bene di che cosa andassero effettivamente ad acquistare. Ed ora è il momento della nostra rubrica sulla lotta all'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Germania e Svizzera hanno firmato ieri a Berna un accordo per riportare in patria i capitali dei cittadini tedeschi spostati illegalmente nelle banche elvetiche negli ultimi 10 anni. Avete già sentito questa notizia? Bravi, infatti l'accordo c'era già stato, ma ora l'intesa viene corretta al rialzo. Ora gli evasori che vogliono riportare in terra tedesca i soldi pagheranno una tassa sui capitali scudati del 41% rispetto al 19-34% dell'intesa precedente. Secondo stime recenti, in Svizzera ci sarebbero tra 130 e 180 miliardi di euro di proprietà tedesca e quindi la Merkel incasserebbe parecchio. Ma perché l'Italia non fa un accordo simile? Si tratterebbe, si calcola, di almeno 14 miliardi di euro di pronta cassa. Il perché Monti l'ha spiegato più volte. Ancora ai primi di marzo ha detto che accordi del genere sono a rischio di procedura comunitaria. Curioso che il paese che ha inventato lo scudo fiscale con una tassa di appena il 5% sui capitali scudati si faccia scrupoli di questo genere di fronte all'opportunità di riportare in patria capitali tassati fino al 40%. Anche perché, ad esempio, sui frontalieri, in occasione della sua visita al centro comune di ricerca di Ispra, il presidente della Commissione europea Barroso, il 16 marzo, ha detto che si tratta di una questione fra Italia e Svizzera e questi due paesi devono stringere accordi bilaterali. In ogni caso, intanto, la Germania va avanti e incassa. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato delle dichiarazioni di Bossi all'indomani del suo addio alla guida del Carroccio. Attaccano la mia famiglia solo per colpire me, il partito, ha detto, e poi se l'è presa con i magistrati. Le inchieste sono organizzate da Roma Padrona. Sul fronte economico e per quanto riguarda la riforma del mercato del lavoro, la critica del Wall Street Journal, la stampa conservatrice anglosassone nei confronti di Monti, un passo indietro alla nuova stesura della riforma da parte del governo, dice il Wall Street Journal. Intanto i dati economici dicono che c'è stato un boom della cassa integrazione a marzo, secondo l'INPS c'è stata una crescita del 21%. Adesso le altre notizie, a cominciare dall'Aquila. Circa 10.000 persone hanno partecipato stanotte alla fiaccolata conclusasi in piazza Duomo all'Aquila per ricordare le 309 vittime del sisma che il 6 aprile del 2009, per l'esattezza alle 3:32 del mattino, distrusse il capoluogo abruzzese e altri 56 paesi vicini. Il silenzio è stato infranto da 309 rintocchi delle campane, quelle che stavate sentendo in sottofondo, della chiesa delle Anime Sante, rintocchi accompagnati dalla lettura dei nomi delle vittime. E allora sentiamo il racconto di Giustino Parisse, che è caporedattore all'Aquila del Centro, al microfono di Anna Migliorati. Stanotte è stata una lunga notte, 3 di quei rintocchi che abbiamo sentito, come dire, mi hanno colpito nel profondo, nel senso che fra quei rintocchi e fra quei nomi c'erano, ci sono i nomi dei miei 2 figli e di mio padre. La notte è stata una lunga notte, iniziata ieri sera alle 9, con una messa, con la lavanda dei piedi a cui hanno partecipato i parenti delle vittime, con una prima lettura dei nomi durante la messa, poi questa fiaccolata che è partita dalla Fontana Luminosa, ha fatto un largo giro, poi è risalita su Piazza Duomo, dove appunto c'è stato questo momento di ricordo. Alla luce delle fiaccole, in una città appena appena illuminata, una città che è vuota, una città tutta ancora da ricostruire. Sia il centro storico dell'Aquila che i centri storici del circondario, quelli più colpiti, sono più o meno come quella mattina di 3 anni fa. Il centro storico dell'Aquila in più ha solo che molti edifici, anzi quasi tutti gli edifici, sono puntellati. Era impossibile pensare che dopo 3 anni l'Aquila potesse essere già tornata com'era. Ma quello che fa male è che, siccome è tutto fermo, è tutto bloccato, non c'è nemmeno, come dire, una prospettiva precisa. Cioè, se non parti, non sai nemmeno quando arrivi o se arrivi. 3 anni dopo, secondo te qual è stato l'errore più grave commesso nel dopo terremoto? Con il senno del poi potremmo dire che l'errore è stato quello di pensare subito a rifare delle case per l'emergenza, i famosi piani case, le new town e le casette di legno, i MAP nelle frazioni, e non aver pensato subito di riavviare i lavori all'interno dei centri storici. Cioè, i centri storici sono rimasti congelati in attesa dei piani di ricostruzione, che poi hanno scatenato una polemica politica e istituzionale che ha bloccato praticamente tutto. E proprio a proposito della ricostruzione dopo il terremoto dell'Aquila, entro l'anno partiranno i lavori per il centro storico del capoluogo abruzzese, promette così a Radio 24 il ministro della coesione del territorio Fabrizio Barca, che è stato incaricato dal premier Mario Monti di seguire la ricostruzione. Anche lui ha partecipato alle cerimonie in ricordo del sisma di cui abbiamo appena parlato. L'ha intervistato Raffaella Calandra. Il ritardo c'è, si è accumulato nell'ultimo anno e mezzo ed è legato al sopravvenire all'interno di una città che ha conosciuto una fase di grande fiducia, anche di grande capacità di reazione nella fase emergenziale, nel sopravvenire di tensioni tra diversi livelli e componenti delle pubbliche istituzioni e anche sfiducia da parte dei cittadini. Questo ritardo è esattamente ciò che stiamo cercando di eliminare. Per quanto riguarda il centro invece, si può immaginare che entro la fine del 2012, quando anche, diciamo, almeno al momento è assicurato lo stato d'emergenza, possa partire una anche ricostruzione. Prima. Quindi prima della fine del 2012. Certamente. Questo è un impegno che lei si sente di assumere con l'Aquila. Non è un impegno, è la valutazione che viene fatta da tutti i soggetti che lavorano e che è ragionevole assolutamente realizzare. E ora, prima di andare all'estero con le prossime notizie, un'ultima ora che viene dal Consiglio dei Ministri, dove è stata resa nota una lista di comuni che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, dunque sciolti per mafia 3 comuni in Campania e 2 in Calabria. Si tratta di Castelvolturno, Casa Pesenna e Casal di Principe in provincia di Caserta. Per quanto riguarda la Calabria invece si tratta di Mileto in provincia di Vibo Valentia e Bagaldi in provincia di Reggio Calabria, tutti comuni sciolti poco fa per mafia dal Consiglio dei Ministri. E adesso, come dicevamo, all'estero, prima di tutto panico a bordo e paura ad un volo Ryanair partito da Bergamo e diretto a Nottingham, che ha dovuto fare un atterraggio d'emergenza in Germania dopo che una depressurizzazione in cabina 15 minuti dopo il decollo ha creato appunto condizioni di scarsa sicurezza per il volo. I passeggeri hanno sentito il pilota che lanciava l'SOS e hanno visto da pochi metri le cime delle Alpi nevate sempre più vicine, mentre l'aereo scendeva rapidamente a quota 3000 metri. Sono poi scattate le maschere per l'ossigeno, ma tutto si è concluso tranquillamente con l'atterraggio d'emergenza in Germania. Un ungherese ha ucciso stamane con una spada 4 persone e poi si è barricato nella sua casa nel villaggio di Kulx, 60 km a sud della capitale Budapest. L'uomo terrebbe in ostaggio altre 3 persone, una unità antiterrorismo si trova sul posto. E andiamo in Israele, dove in occasione della Pasqua ebraica, che inizia stasera e durerà una settimana, nel paese sono stati elevati gli stati di allerta e è stato imposto la chiusura dei valichi di transito con la Cisgiordania fino alla nottata di sabato. Ora in Cina i governi di numerose città cinesi stanno cercando di rimettere in funzione i loro siti web che sono stati attaccati dal gruppo di hacker denominato Anonymous, che promette di continuare a tenere sotto scacco i siti del governo per protestare contro la censura imposta proprio ad internet da parte delle autorità cinesi. Oggi Venerdì Santo, per la prima volta anche a Cuba dopo il viaggio del Papa. Non si lavorerà oggi a Cuba, le attività non essenziali si fermeranno. Per la prima volta nell'isola il Venerdì Santo sarà celebrato come festività religiosa, lo aveva chiesto il Papa nella sua recente visita e così ha deciso Raúl Castro, con una misura eccezionale che ricorda quella del fratello Fidel, che in omaggio ad un'altra storica visita, quella di Wojtyła nel 98, regalò ai cubani il ritorno del Natale. A Roma, al Colosseo, invece, questa sera si terrà la tradizionale Via Crucis, presieduta da Benedetto XVI. Il Papa seguirà la cerimonia da una postazione allestita sul Colle Palatino. La coppia di focolarini, Danilo e Anna Maria Zanzucchi, mediterà attraverso le 14 stazioni sulle Vie Crucis che spesso una famiglia moderna si trova ad affrontare. La sofferenza ed il dolore per i tradimenti, i dissapori, le malattie, i dissesti finanziari, i divorzi, gli aborti. A portare la croce, oltre a due frati francescani della custodia di Terra Santa, proprio alcune famiglie provenienti dall'Italia, dall'America Latina, dall'Africa, dall'Irlanda. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora apriamo una ampia pagina sportiva, iniziamo da una notizia di calcio. La Fiat è sponsor della Juventus con il marchio Jeep. Il memorandum è stato sottoscritto e prevede da parte del gruppo torinese la sponsorizzazione della maglia da gioco dei bianconeri per le prossime 3 stagioni sportive. E adesso, insomma, weekend di Pasqua, vediamo quali avvenimenti sportivi ci saranno a tenerci compagnia. Carlo Genta, buon pomeriggio Carlo. Buon pomeriggio Alessio, buon pomeriggio a tutti. Come d'abitudine, domani si scrive sabato ma si legge domenica perché ci sarà il calcio, perché ci saranno tutti gli sport di squadra, tutti i campionati in campo. Anzi, per la verità si comincia oggi con la giornata intera di Serie B, che è la 34esima, aperta da Brescia-Verona alle 17, Vicenza-Juve-Stabia sempre alle 17, poi alle 19 tutte le altre partite. E domani gioca per intero la Serie A con una sorta di spezzatino, perché avremo il grosso delle partite alle ore 15 con il Milan che riceve la Fiorentina, con l'Inter che va a Cagliari, con Lecce-Roma, con l'Udinese che gioca a Parma, poi alle 18.30 discenderà la Juventus a Palermo e alle 21 chiuderà il programma quello che è di fatto un confronto diretto per la Champions League, cioè Lazio-Napoli. Questo accadrà domani. Domenica avremo invece il debutto del Moto Mondiale in Qatar, ma avremo soprattutto un appuntamento molto importante, molto affascinante come la Parigi-Roubaix. Dunque, lo sport che non si ferma, molto sport al sabato e un paio di appuntamenti importantissimi la domenica. Insomma, a tenerci compagnia, Carlo, il ciclismo la domenica, perché sappiamo che il calcio, quando ci sono le feste, insomma, fa sempre un passo indietro. Va bene, grazie Carlo, però continuiamo a parlare di sport, poi l'appuntamento con il Tempo di Sport, naturalmente alle 14. Palla spicchi questo pomeriggio, mi suggeriscono giustamente dalla regia, oggi è venerdì. E allora parliamo sempre di calcio, perché finché non si realizzerà, resterà, e se mai si realizzerà, una telenovela, quella del possibile riavvicinamento tra Balotelli e l'Inter. Non è d'attualità per quanto riguarda le altre cose, tra cui Mario. Credo che ci sarà tempo tra 1-2 mesi. Risposta più sibillina Marco Branca non poteva darla. A fianco del direttore dell'area tecnica interista c'è Freddy Guarin, il colombiano sbarcato in nerazzurro dal Porto e fresco di rientro in campo dopo un lungo infortunio. Ma le domande riguardano tutte lui, cioè Super Mario Balotelli, in odore di clamoroso ritorno in nerazzurro. Segnali di fumo che Branca non spegne, anzi alimenta. Del resto, tra litigi con i compagni e con Roberto Mancini, sexy scandali e un titolo che sta scappando via, Balotelli ha Manchester non se la passa poi granché bene, mentre la stima e l'apprezzamento calcistico di Moratti sono immutati. E allora si continuerà a trattare sotto traccia, facendo attenzione ai blitz altrui, vedi il Milan ad esempio, per verificare se l'estate riporterà al clamoroso ricongiungimento. Nota a margine, per il centravanti ieri a Manchester ennesimo tamponamento in auto, per fortuna senza guai. Come dire che Super Mario non è cambiato, in campo ma anche fuori. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di un appuntamento con l'importante mostra di Picasso in arrivo a Milano.